La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino torna ai microfoni dopo questa mattina insieme a Alessandro Milan, attenti a noi due, e anche domani mattina ovviamente dalle 8:15 alle 9 vi teniamo compagnia. Oggi vado subito all'argomento per consentirvi di riflettere, se telefonare all'800240024 349-238-6666 per gli sms. Torniamo, come è obbligatorio, visto che venerdì il governo ha annunciato la legge di stabilità, abbiamo ancora i tweet, non abbiamo i testi, però insomma il dibattito politico si è acceso dentro il PD. È ovvio che le opposizioni siano contrarie, però il rilievo delle contestazioni su alcune scelte di fondo, i mutasi, il canone Rai, è molto forte. Ripeto, innanzitutto a rilievo che lo sia dentro il PD, però insomma il dibattito è aperto, la manovra in deficit, l'abbandono del sentiero dei tagli di spesa, la scommessa sul fatto che alzando il deficit comunque, dice il governo, si abbasserà il debito pubblico, tutta appesa a un 1% di inflazione di cui non si vedono i segnali oggi, perché al contrario i dati di settembre mostrano che siamo tornati pesantemente in deflazione. Insomma, c'è questo dibattito su molte delle misure e sulla scelta politica di fondo, insomma, che è quella di alzare il deficit, far saltare le clausole di salvaguardia solo nel 2016, ma poiché non ci sono le risorse, visto che si chiede all'Unione Europea di darci il sì a più deficit, lasciare immutate per decine di miliardi nel 2017-2018 le clausole di salvaguardia dell'aumento delle accise delle imposte indirette, che comunque restano come spada di Damocle, e quindi se per caso qualcosa andasse storto nel 2016, poi a fine anno fare la legge di stabilità l'anno prossimo sarà purtroppo molto più pesante che quest'anno. La notizia di oggi è che l'Unione Europea sembrerebbe, da indiscrezioni, la Commissione Europea, scusatemi, pronta a dare l'ok per la versione, diciamo così, del deficit contenuto al 2,2%, non la versione accessoriata della legge di stabilità, cioè con altri 3 miliardi di deficit in più, con la famosa clausola migranti, che però non sarebbe usata per i profughi, ma sarebbe usata invece per l'anticipo dell'IRES e per coprire l'aumento della no tax area per i pensionati, che il governo aveva annunciato in legge di stabilità e che poi in 24 ore si è capito invece per i pensionati over 75 anni, l'aumento da 7-8 mila euro della no tax area, che è invece posticipata al 2017, tranne che ci sia questo deficit aggiuntivo concesso dell'Unione Europea. Chiamateci per dirci che cosa vi colpisce, cosa condividete o meno della legge di stabilità. Noi vi facciamo sentire due opinioni diverse nell'arco della trasmissione, e quindi cominciamo con un punto di vista più liberale, per così dire, e poi nel proseguo della trasmissione un punto di vista della sinistra PD, che obietta da un altro punto di vista alla scelta della manovra. Allora, innanzitutto è con noi il professor Nicola Rossi, economista, ex parlamentare, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, cosa dice, professore, della scelta di fondo innanzitutto di questa legge di stabilità, cioè alzare il deficit, con questo finanziare molti tagli d'imposta che fanno discutere, poi per la natura, a cominciare dai mutasi, però anche molti incentivi all'ordo dell'occupazione aggiuntiva, sia pur abbassando la decontribuzione dell'anno scorso, e incentivi anche sugli investimenti lordi invece che netti aggiuntivi. Lei che pensa? Ma distinguiamo due piani. Il primo piano è quello, come dire, strettamente macroeconomico. Io, per quanto mi sforzi, non riesco a individuare una qualunque motivazione macroeconomica per una manovra finanziaria di questo tipo. Non lo consiglia la situazione congiunturale domestica, che manifesta, diciamo, i primi segnali di una sia pur tiepida ripresa, diciamo, ma certo non è questo il momento per mettersi a fare manovre di disavanzo. Non lo consiglia la situazione globale, che invece, come dire, ha molti elementi di incertezza. Non lo consiglia lo stato della finanza pubblica, non lo consiglia la situazione in cui ci troviamo all'interno dell'Eurozona. Per come la si volti e per come la si giri, è difficile trovare una giustificazione a questo tipo di manovra così pesantemente in deficit, perché qui stiamo sostanzialmente parlando di 2/3 della manovra in deficit. Allora, sì. Cerchiamo di essere seri, diciamo, quando si parla di ulteriori efficientamenti è perché non si ha un'idea precisa di dove si vanno a trovare i soldi. Non trovo una motivazione macroeconomica per una cosa di questo genere, ne trovo una politico-elettorale che è perfettamente legittima, diciamo, non è una novità, ma allora forse è bene chiamare le cose con il loro nome. Se poi vado dentro, diciamo, la manovra, allora c'è un aspetto che è quello delle imposte sulla casa che personalmente, per quanto non ritenga particolarmente efficiente cominciare dalle imposte sulla casa, credo che sia del tutto comprensibile. Quando si tassa una posta da 0 a 50 miliardi nel giro di 4-5 anni, poi bisogna aspettarsi questo. Bisognerebbe prendersela con quei governi precedenti che hanno pensato di poter tosare la pecora della casa fino ad ammazzarla, ottenendo, diciamo, a questo punto un effetto di rimbalzo. Bisognerebbe anche prendersela, detto con franchezza, con quei governi che hanno scritto sia l'IMU che la TASI in maniera tale da essere del tutto incomprensibile agli italiani. Quindi io non riesco ad appiccicarmi, devo dire, a quell'aspetto. No, a parte quello, però, onestamente, vedo una serie di piccolissimi interventi, tutti dedicati a diversi segmenti dell'elettorato. Nessuno di questi lascerà segni, diciamo, tangibili e durevoli, devo essere, a mio modo di vedere. Pensare di risolvere il problema della povertà con quegli spiccioli, diciamo, che sono stati appostati, pensare di risolvere il problema degli investimenti con quegli spiccioli che sono stati appostati, onestamente mi sembrano cose più anche qui, diciamo, da leggere in un'ottica politico-elettorale che non da leggere invece in un'ottica di politica economica. Un'ultima osservazione: se i miei conti non sono sbagliati, noi stiamo sterilizzando le clausole di salvaguardia per il prossimo anno per una parte a debito. Se un privato facesse questa cosa la chiameremmo piramide finanziaria. Senta, la scelta, il ministro Padoan argomenta la scelta proprio del vento instabile, quasi contrario, che viene dai mercati internazionali su questi, come ha detto lei, tipi di segnali di ripresa italiana, cioè da una parte la deflazione che importiamo sulle materie prime, le commodities e così via, e poi il rallentamento del commercio mondiale e delle attese di crescita. Il Fondo Monetario l'ha rivista al ribasso in maniera molto significativa per via della crisi degli ex BRICS, per così dire. E proprio per questo, dice Padoan, noi dobbiamo affrontare un anno nel quale il traino dell'export, che è stato molto rilevante nella ripresa italiana, che ha sostenuto comunque anche in questi anni di crisi, pur di perdita di molti punti di PIL e di produzione industriale, noi dobbiamo immaginare che non sia così sostenuto come pensavamo. A maggior ragione, quindi, bisogna fare una finanziaria prociclica domestica che rafforzi fiducia ai consumi, ed è questa la ragione per cui lui dice, per questo i mutasi, che serve non tanto al PIL ma su fiducia ai consumi, per questo continuare con incentivi fiscali all'ordo per l'occupazione e per gli investimenti invece che quelli aggiuntivi, cioè per questo concentrare così tante risorse sul totale della manovra in queste cose invece che su un abbattimento dell'IRAP, per cui ci sarà da aspettare ancora tempo. Questa interpretazione del ministro Padoan perché non la convince? Ma per due motivi, perché innanzitutto, diciamo, a questo punto facciamo sapere al resto del mondo che noi stiamo invertendo l'andamento del prossimo anno per l'economia globale e saranno certamente entusiasti di questa notizia. Insomma, capisco le manie di grandezza, ma credo che dobbiamo ricordarci che siamo una piccola economia all'interno dell'Europa. Ma la seconda argomentazione, meno ironica, è se uno va a guardare il modello econometrico in base al quale lo stesso Ministero dell'Economia fa i suoi conti, scopre che in realtà noi, facendo una manovra come questa, stiamo attivando in larghissima misura la domanda estera dei nostri partner, la domanda interna dei nostri partner europei, perché noi importeremo pesantemente, diciamo, una bella fetta di quella iniezione di risorse che stiamo facendo nell'economia. Quindi da questo punto di vista, come è già successo l'anno passato, perché è successa la stessa cosa, una bella fetta di quelle risorse defluirà e diventerà PIL tedesco, francese, olandese, spagnolo. Piuttosto che nostro. Ci ringrazieranno, certamente, ma io non so se era questo l'obiettivo che si voleva ottenere. Un'altra cosa, dell'abbandono per questa legislatura, quindi in questo ciclo politico, in questo orizzonte politico, di ogni seria intenzione, al di là delle parole, di incidere in profondità su una spesa pubblica che resta superiore al 51% del PIL. Che pensa? Penso che qui, come dire, questo era il punto in cui si doveva vedere la capacità del governo, e penso che su questo punto il governo abbia purtroppo fallito come i precedenti. È molto più difficile tagliare la spesa che non fare una riforma elettorale, è molto più difficile tagliare la spesa che non fare la riforma dell'articolo 18, se i sindacati sono nelle condizioni in cui sono oggi. Di fronte ad una vera resistenza, perché si tratta di incidere su se stessi, il governo si è fermato. Mi spiace molto, devo dire la verità, perché come dire, questa grande energia che il governo profonde mi sarei aspettato producesse qui risultati diversi. Se anche questo governo fallisce da questo punto di vista, veramente abbiamo un problema serio, diciamo. Abbiamo proprio una politica che ha deciso di abdicare. Di abdicare. E lei, alla scommessa annunciata con certezza da parte del MEF e del Presidente del Consiglio, che malgrado il deficit aggiuntivo e malgrado tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, il debito pubblico comunque scenderà l'anno prossimo, crede che sia un calcolo fondato o no? No, credo che sia, credo che sia veramente un problema serio. Cioè, quando si ha il debito pubblico che noi abbiamo, non ci si può attaccare ad una previsione. Noi abbiamo un serio problema di debito che, come dire, viene tenuto, viene nascosto dalle scelte di politica monetaria della Banca Centrale Europea, ed era nascosto fino a qualche tempo fa dall'andamento dell'economia globale, diciamo. Queste tende, questi veli cominciano a cadere, e potrebbero cadere nel 2016 e lasciarci completamente nudi. Arrivare così scoperti ad un momento che può essere delicato, io lo considero una straordinaria imprudenza, devo essere sincero. Mi pare di capire che, non so se lei condivide, che in realtà l'aspettativa, un po' quella dei mercati, però finché i mercati scommettono bene, ma anche forse quella del governo, è che il quantitative easing di Mario Draghi sarà protratto, magari spessito, proprio visto alla luce del fatto che i dati dell'andamento dell'inflazione restano lontanissimi dall'aumento del 2%. È una finanziaria che tiene conto anche di questo, che San Mario poi ci mette la sua mano? Io questo credo che sia probabile, diciamo. Del resto la stessa scelta di politica monetaria negli Stati Uniti è stata protratta non poco, e lo è stata, diciamo, anche non più tardi di settembre, quindi non mi meraviglierei se anche nel nostro caso, nel caso europeo, venisse procrastinata. Io però non vorrei che tutti comprendessero che non è gratis quella scelta di politica monetaria. Invece tutti pensano di sì, a dire la verità. E questo è il problema, il punto di fondo è proprio questo, diciamo. Tutti pensano che sia gratis e che possa continuare all'infinito. Non è gratis e non può continuare all'infinito. Spieghi perché non è gratis a chi invece comincia a perché non è gratis, perché stiamo iniettando liquidità in misura abnorme in tutto il sistema, e io vorrei che tutti cominciassero a riflettere sul fatto che le piccole bolle cominciano a venire fuori a Shanghai, nel mercato immobiliare londinese, nella borsa, diciamo, americana, e così via. E sono tutti segnali, diciamo, che ciò che siamo andati facendo negli ultimi anni sta accumulando un potenziale pericoloso molto rilevante. Forse non succederà niente, forse abbiamo imparato la lezione, forse ormai abbiamo messo in piedi tutti i meccanismi che potevamo. Ma io credo che sarebbe veramente responsabile non rendersi conto che maneggiamo qualche cosa di altrettanto pericoloso di quello che maneggiavamo 6-7 anni fa. Per chiarire solo il punto, molto di quello che è successo 7-8 anni fa nasceva dal fatto che a tassi di interesse molto bassi non si apprezza il rischio, esatto, per come si dovrebbe. Questo è quello che sta succedendo di nuovo. E oltretutto i tassi di interesse molto bassi per un tempo così protratto spiazzano anche gli investimenti reali, perché non si riesce a calcolare qual è il ritorno del capitale, con cui è molto più facile far soldi facili con il carry trade sui mercati monetari dei cambi. Questo condivido in pieno. Allora, un'analisi, come vedete, realistica, che non fa sconti. Ciclo elettorale, un grande classico della spesa pubblica italiana, è tornato tra noi, dice il professor Nicola Rossi, che io intanto ringrazio. E nel frattempo, prima dell'interruzione, due notizie dalle agenzie. La prima è che il magistrato titolare del fascicolo aperto alla procura Procura di Roma sulle spese del primo cittadino Ignazio Marino, il PM Roberto Felici, e in questi minuti ha colloquio col sindaco dimissionario che si è recato in procura, Marino. La seconda notizia è che almeno 70.000 civili siriani, tra cui moltissime anziane donne e bambine, sono attualmente in fuga dalla regione di Aleppo, che è al centro dei raid russi da una parte e dell'offensiva iraniana siriana dall'altra. Quindi il rischio di una catastrofe vera umanitaria. Ci sentiamo tra un minuto con una voce invece diversa da quella del professor Nicola Rossi, quella di Stefano Fassina, quindi la sinistra PD, sempre sulla manovra. Tra un minuto. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:48 primi 49 secondi, stiamo vedendo da punti di vista diversi letture critiche della legge di stabilità. Leggo qualche vostro messaggio. C'è Ulisse per esempio che dice: più sento esperti come il professor Nicola Rossi, più mi convinco forse della bontà espansiva della finanziaria del governo italiano. Ci sono altri che dicono: ma in realtà se il deficit in più servisse per investire sarebbe un conto, se serve per fare più spesa improduttiva con sprechi e ruberie no. Per il canone Rai, molto sul canone Rai, per esempio Luca da Vicenza dice: ma perché non ci danno la smart card con il segnale criptato? Perché è una tassa sul possesso degli apparecchi di ricezione, non è un canone per cui a quel punto chi non compra la card e non utilizza la Rai non paga, eh? E questa è la doppia fregatura. Invito tutti a leggere oggi il commento, in cui mi riconosco parola per parola, di Pierluigi Battista sul Corriere, che dice: ci danno lo slogan per cui bisogna pagare tutti, va bene, pagheremo tutti, ma non possiamo dimenticare che questo è un balzello ingiusto, perché la storia della libertà è fatta di contestazioni di tasse ingiuste, e questa resta una tassa ingiusta. So che molti dicono che dirlo significa essere amico degli evasori, non è così. Servizio pubblico, faccia come in altri paesi europei c'è chi ha tenuto la pubblicità e ha abrogato il canone. C'è chi invece ha levato la pubblicità e c'ha un canone come la BBC, di rete di servizio pubblico. Noi invece non facciamo niente di tutto questo, lo mettiamo in bolletta. Allora, sentiamo rapidamente anche qualche telefonata. Cominciamo con Giulio da Roma. Giulio, prego. Sì, buongiorno dottor Giannino. Io sono un ex dirigente della Fininvest, pensionato da qualche anno, e vorrei dire brevemente che intanto, insomma, gli strombazzamenti del governo, no? Renzi, l'altro giorno il sottosegretario Zanetti era lì nella vostra rubrica, e continuano a parlare di diminuzione delle tasse. Allora, dal mio punto di vista, come pensionato, e le assicuro rappresento non soltanto me stesso, ma decine e decine che la pensano come me. Dove sono le diminuzioni delle tasse? Il dirigente ha una pensione medio-medio-alta che è stata non perequata ormai da anni, no? Quindi perdiamo potere d'acquisto. Nel 2015, grazie alla Regione Lazio, è stata raddoppiata l'IRPEF addizionale regionale. Ah sì, si trova in una regione a rientro 4 di sanità, quindi con le sovraliquote al massimo. Ma teniamo conto, tanto per essere così concreto nei numeri, nel giro di 2 anni il mio stipendio è diminuito di circa il 5% grazie all'aumento delle addizionali comunale e regionale. Guardi Giulio, io le posso solo dire che questo è, lei sta parlando di fatti, non sta parlando di opinioni, e di fronte a questi fatti poi è intervenuta anche la Corte Costituzionale per dire: dovete riperequare le pensioni, dovete riaprire la contrattazione nel settore pubblico e così via. Io ricordo anche che, prendendo alla lettera i più o meno poco più di 20 miliardi di sgravi fiscali, sono in realtà meno secondo me, ma comunque prendiamo alla lettera quello che promettono nella legge di stabilità, vi faccio presente che gli stessi conti del governo dicono che l'aumento delle entrate previsto per l'anno prossimo era di 33 miliardi, quindi resta comunque un aumento, seppur meno rilevante del previsto, del totale delle entrate. Allora, ci ha raggiunto Stefano Fassina, allora vediamo invece dal suo punto di vista che cosa non funziona, o che cosa funziona, ma io innanzitutto gli chiedo che cosa non funziona secondo Stefano Fassina, che spesso è ospite della mia trasmissione. Io ho sempre rispettato la coerenza delle sue scelte da quando si mise al MEF e così via. Lui la pensa in maniera diversamente, ma combatte all'interno del suo partito. Allora, grazie di essere con noi Stefano. Ci dici che cosa non ti convince della legge di stabilità del governo Renzi? Innanzitutto buonasera, ma non mi convince diciamo la dimensione macroeconomica, il segno macroeconomico, e poi non mi convincono diversi punti della composizione. Avremmo avuto bisogno di una manovra effettivamente espansiva, mentre questa è meno restrittiva di quella che era prevista nei precedenti documenti di finanza pubblica, ma comunque una manovra restrittiva. L'indebitamento cala di 0,4 punti per cento del PIL nel 2016, l'indebitamento previsto rispetto a quello previsto per quest'anno, quindi si sottraggono complessivamente risorse all'economia in una fase in cui la ripresa incerta avrebbe avuto bisogno di sostegno, in particolare di sostegno attraverso gli investimenti, attraverso gli investimenti in piccole opere per la riqualificazione del territorio, la messa in sicurezza delle scuole, quindi per l'edilizia diciamo di riqualificazione e non espansiva. Quindi insomma, lei dice bisognava magari anche forzare di più sul deficit, ma per investimenti pubblici. Per investimenti pubblici, fare una battaglia vera con l'Europa, non su un punto di debolezza come oggettivamente l'eliminazione della tassa sulla casa per tutti, ma per spazi che poi possono essere utilizzati per riqualificare il territorio e per far ripartire dei lavori. Dopodiché, nella composizione. Io trovo francamente, ho usato un aggettivo, mi rendo conto, pesante, però. La penso così e lo dico, trovo immorale intervenire sulla prima casa di tutti, ho ripreso i dati del MEF, quindi non elaborazioni mie, il top 10 dei contribuenti delle tasse sulla prima casa versa il 37% del gettito complessivo, quindi si può eliminare la tassa sulla prima casa per il 90% dei contribuenti e salvare, tra virgolette, quasi 2 miliardi di risorse che a mio avviso si sarebbero dovute allocare per il contrasto alla povertà. Del nostro paese. È un esempio chiarissimo. Io ti dirò che non sarei partito mai da quel mix della prima casa, questa è una mia opinione, io l'avrei utilizzato per tutt'altro quei 5 miliardi, però lì c'è una questione di consenso, mi pare che Renzi spinga su questo pedale. Mi dispiace che hai fatto ritardo nel telefonarci, però recupereremo prossimamente. Grazie anche a Stefano Fassina, continuate con la D24, domani mattina 8:15, attenti alle 2 con Alessandro Milan e domani pomeriggio con me qui a Versione di Oscar.